come vuoi, sì, sì, che pure qui. Seguite con attenzione, mi sembra una pagina molto in sintonia con quello che Francesco ha detto. Comunque a pagina 194 di Sui sentieri di Dio. Gesù ci mostra perciò una nuova immagine di Dio, non un Dio che invita alla fuga dal mondo, ma che creando vede che tutto è buono. Non un Dio che ama negoziare come se potesse trovarsi sui banchi del mercato quell'amore senza prezzo con il quale intende raggiungerci, ma che invece si offre gratuitamente e fino al dono totale della vita. Non un Dio che esige culti e sacrifici esteriori mortificanti per l'uomo, ma che sciogliendo le catene imposte dalla religione proclama il sabato fatto per l'uomo. Un Dio al quale stanno a cuore la cura e la crescita dell'umano. Lo stesso mistero dell'incarnazione afferma questa liberante novità, centro del Vangelo. È Dio che rompe gli argini, le barriere, gli steccati umani, le barricate tra sacro e profano e i muri di separazione tra peccato e grazia. Egli viene ad abitare nel cuore dell'umanità, si sporca le mani per levare la polvere che copre la bellezza del volto dell'uomo, tende la mano ai deboli ed entra nella malattia per guarirla. Egli non è un Dio che vuole essere adorato nell'alto dei cieli, ma per primo discende fino a diventare servo dell'umanità. Grazie. Ecco, io penso che la riflessione che ha fatto Francesco sull'importanza delle immagini di Dio sia fondamentale. Sarebbe bello se qualcuno di voi invece dicesse qual è l'immagine di Dio che gli fa per il prezzo. Così io posso scrivere ancora su questo tema, se me ne suggerite altre. E proprio non riesco ad accettare. Io gliene raccontavo una tavola, l'immagine di Dio che prende gusto a mandarti le risposte. È un'idea ricchissima. Noi ancora l'abbiamo sperimentato 2 o 3 anni fa, quando è morto una risposta di mio fratello, io ho sentito un signore che diceva: è stato buon Dio. No? Quindi questa immagine terribile di Dio che responsabile delle tragedie o dello tsunami è un'idea che io non so che fare. Però ce ne sono altre. Noi proprio chiarire che noi diamo sempre una malattia, una morte improvvisa, un tempo malvagio, ecco, è Dio, no? Bisogna, è Dio che fa queste cose qui, perché quasi quasi non stai al parco per svariati motivi. Rassegna che la volontà di Dio. Raccogliamo 3 obiezioni, poi 3 domande, poi per il Dio che è insopportabile e Dio che è cattivo. Prego. Il discorso dell'immagine di Dio è legato all'uomo. Io ho in mente l'idea che Dio sia una proiezione dell'uomo, una creazione dell'uomo. Se non c'è l'uomo non c'è Dio. Mi pongo anche il problema, io quasi naturalista, l'uomo è comparso sulla faccia della terra qualche 100.000 anni fa. Prima, quindi si arriva indietro a migliaia di anni fa, in questo universo, l'impronta di Dio, qual è stata? Se c'è stata, posto ci sia. Comunque mi pongo il problema che l'immagine è un qualche cosa legata all'uomo. Una pietra non si fa un'immagine di Dio, eppure se c'è Dio, Dio c'è anche per quella pietra, un minerale dell'acqua che corre in un ruscello. Quindi non vorrei che esaurito l'uomo finisse anche l'idea di Dio. Quindi creare una nuova immagine di Dio, io mi sembra una cosa un po' difficile da dire, perché se è l'uomo che crea l'immagine, uno si crea l'immagine di Dio che vuole, per cui e poi vive in base a quello che si è creato. Perché poi se Dio c'è per tutti, quindi in qualche modo il discorso vale per tutti, al massimo uno può dire non mi interessa oppure va bene, cioè. Il discorso dell'immagine che vorrei che sia, che fosse chiarita un po' meglio. C'era un'altra persona lì? No. Nella Bibbia c'è un Dio che punisce, che manda le guerre. È quello che io non mi spiego. Non ha niente a che fare con il Dio misericordioso. A questa domanda faremo rispondere la biblista, ve lo dico. Riflessione mia, non da buddista, ho la vaga impressione, e sì, la teologia ci insegna che Dio è onnipotente, ma io ho la vaga impressione che questa onnipotenza di Dio alla fine mi crea più problemi che non altro. Perché allora se Dio è onnipotente, perché c'è il male, perché ci sono tanti problemi, eccetera, eccetera. Però questo me lo allontana anche. Questo allontana anche sempre di più Dio da me, anche lo fa andare sempre più verso i cieli più alti e sempre più distaccato dalla terra. Ho idea che invece l'immagine più scandalosa, forse di un Dio più debole, sarà scandalosa al principio, ma dopodiché mi rende un Dio più umano e più vicino a me. Allora, questa è una domanda più che altro. È una sensazione che ho da diverso tempo, che un Dio onnipotente sia alla fine un Dio che io faccio, con cui faccio fatica a relazionarmi, un Dio tra virgolette debole e invece un Dio con cui posso comunicare molto, che faccio relazionarmi molto. Allora, sul tema dell'immagine di Dio, una premessa che credo di dover un attimo ribadire, perché non so se è stata chiara, è che le immagini di Dio orientativamente sono tutte parziali, cioè il concetto di immagine, di rappresentazione, dice già qualcosa che è diverso da ciò che Dio è realmente. E dunque, e così vengo già ad una delle obiezioni che però poi riprendo meglio, e dunque in realtà c'è un comando biblico, che è il primo comando biblico, che vieta di farsi immagini di Dio. Non ti farai immagine alcuna. Questo da che cosa dipende? Lo accennavamo un po' stamattina, dal fatto che Dio rimane altro rispetto a noi e rimane Dio, anche se la caratteristica principale del nostro Dio, che genera poi la nostra fede, è la sua vicinanza, il suo essersi fatto uomo, il suo camminare in mezzo a noi. Ma Dio rimane Dio, cioè rimane diverso da tutto ciò che noi possiamo immaginare di Lui. E quindi qua il problema, forse per chiarire meglio, non è quale immagine di Dio scegliere. Intanto diciamo che le immagini di Dio, delle immagini di Dio abbiamo bisogno perché siamo uomini, ma le immagini di Dio sono parziali e in moltissimi casi questa parzialità giunge a tradire la vera essenza di Dio e quindi anche il contenuto del suo messaggio. Allora, da una parte bisognerebbe rinunciare a farsi immagini di Dio, poiché è impossibile talvolta credere senza avere un'immagine di Dio, quello che almeno dobbiamo fare con grande umiltà, ma anche con grande spirito critico, è sottomettere le nostre immagini di Dio a un criterio di verità. E il criterio di verità per noi è Gesù, è la sua parola. Cioè passare sotto il vaglio della figura di Gesù, della parola di Gesù, della prassi di Gesù, tutte le nostre immagini di Dio. Questa è una premessa. Adesso prendo un po' così in maniera più lineare alcune delle vostre obiezioni, osservazioni o domande. Intanto, ecco, chiariamo che tipo di relazione c'è tra gli eventi della nostra vita e Dio. Perché qui c'è un problema, c'è un ostacolo che noi incontriamo. E l'abbiamo detto anche stamattina, o le due cose viaggiano su terreni completamente opposti e separati, e allora questo Dio, se proprio c'è nella mia vita, deve riguardare il momento della preghiera, la celebrazione della messa, ma non ha nessun tipo di legame e di incidenza con la mia vita reale. Allora in questo caso fede e vita sono separati, fede e storia sono separati, regno di Dio e, dicevamo, tempo secolare, mondo secolare, vita umana sono separati. Oppure c'è il rischio opposto, che è quello in cui cade a volte chi crede con una certa intensità e anche frequenza, quello di mettere Dio come un oggetto tra i tanti della nostra vita, cioè come se questo Dio alla fine perdesse il suo carattere di Dio e diventasse una delle tante cose della nostra vita, soltanto che è rivestito di alcuni caratteri un pochettino superiori, quasi da Superman. Allora, noi che cos'è che dobbiamo imparare nella nostra relazione con Dio? Noi, anche qui, è una situazione, questa è una realtà che viviamo nel segno del paradosso, cioè Dio è estremamente vicino alla nostra vita, è presente nella nostra vita, ma questo non significa che tutte le cose della nostra vita sono direttamente associate a Dio e che dipendano esclusivamente da Lui. Perché? Perché la relazione che c'è tra noi e Dio è una relazione d'amore. E l'amore, come voi sapete e mi insegnate, implica una giusta distanza tra le due persone che si amano. C'è uno spazio che non è colmabile. Tutto quello che succede a un figlio non può essere associato al padre, anche se il padre è presente nella sua vita giorno dopo giorno. Anche la madre. È la madre, naturalmente. Tutto quello che succede tra marito e moglie, anche se sono un'unica realtà, e lo sono in maniera particolare in virtù del sacramento, non significa che queste due persone sono fuse, sono in simbiosi, sono unite e legate da un legame d'amore che mantiene però entrambi in uno spazio di autonomia e di libertà che permette loro di fare anche delle scelte indipendenti dall'altro. Allora, quando Dio crea, no? Questo si dice forse anche negli studi biblici ogni tanto, facendo riferimento a qualche termine tratto dall'ebraico, quando Dio crea, dice qualcuno, si ritira. Cioè, per dare vita a un altro, io devo fargli spazio, quindi faccio un passo indietro. Questo poi è molto caratteristico del nostro Dio, perché in Gesù, guardate che passo indietro ha fatto Dio. Bonhoeffer dice: si è lasciato scacciare fuori dal mondo, è stato crocifisso fuori dalla città come il peggiore dei malfattori. Perché? Perché adesso noi potessimo continuare a vivere la sua opera anche, tra virgolette, senza di lui. Bonhoeffer dice: come se Dio non esistesse, ma è quello che ci fa liberi. Ce l'ha detto stamattina anche il Vangelo: quando io me ne andrò, verrà un altro paraclito e resterà con voi per sempre. Però guardate che paraclito è, Che presenza è? È la presenza di un Dio discreto. Io per questo nell'omelia ho voluto citare alcune esperienze della nostra vita quotidiana, perché lì non c'è il vento gagliardo, non c'è il tuono, non c'è il fuoco, però c'è lo Spirito Santo, solo che è così impercettibile che noi non ce ne accorgiamo. Ma perché è impercettibile? Perché Dio non vuole imporsi alla nostra libertà. Perché Dio vuole rispettare la nostra vita. Dio vuole essere presente nel modo di un assente. E questo è l'amore. Quando un padre, molti di voi sono genitori, hanno nipoti, quando guardi da lontano, perché l'altro deve farsi la sua vita, anche sbagliando, allora è volontà di Dio che io non trovo la fidanzata? Nel caso mio è volontà di Dio, evidentemente, ma capite? Cioè non tutto può essere associato direttamente alla responsabilità di Dio. L'ho citato stamattina, Dio ci ha creati e ci ha affidati la responsabilità della vita e del mondo. Rimane presente nel più intimo di noi stessi con il dono dello Spirito. Il dono dello Spirito ci illumina, ci fa vedere la strada, ci orienta, genera dentro di noi impulsi che vanno nella direzione dell'amore. Ma ci sono, tra questa cosa, tra questa azione di Dio e la nostra risposta, ci sono tutta una serie di fattori che sono ascrivibili alla nostra umanità, alla nostra libertà, alle nostre scelte, alla nostra responsabilità. Allora, per dire anche qualcosa di concreto, no? Io avevo una persona che ogni tanto ritornava con questo motivo: tu devi pregare perché io non riesco a trovare un fidanzato. Bene, ma io lo dico sempre agli studenti, eh. Io agli studenti dico: guardate che voi potete fare tutte le novene del mondo e pregare intensamente con la fede, con la vera fede, ma se non studiate l'esame non lo passate. Mi scusi, posso sapere a chi insegna lei? Teologia fondamentale. Ma seminaristi? Sì, per la maggior parte a preti. Quindi insomma tutto il popolo. Ma io dico sempre, allora vedete il paradosso, no? Lo studio dipende, passare l'esame dipende soltanto dallo studio? Certo. Forse no, perché anche la preghiera è importante. Sì. Però non dipende certamente solo dalla preghiera, perché se voi pregate e non studiate, allora questo è il rapporto che noi dobbiamo. Certo. Quando diciamo la volontà di Dio, sì. Ma che cos'è la volontà di Dio? Perché sotto questa espressione tante volte abbiamo creato delle cose. Allora a questa amica, sì, dicevo sì, pregherò per te perché tu trovi il fidanzato. E questa storia è andata avanti per un po'. Ora, poiché questa persona è, oserei dire, troppo credente, troppo cattolica, e questo cattolicesimo l'ha portata a vedere nelle realtà del mondo, anche quelle che ineriscono un pochettino alla sua età, o inerivano alla sua età, perché parlo di qualche anno fa, delle cose da cui fuggire. E queste cose da cui fuggire l'hanno portata, pur essendo lei una ragazza laica, ad assumere atteggiamenti e altre cose che, diciamo così, erano più forse da persona consacrata. Allora io un giorno, e lei si è veramente, c'è stata una grande crisi, perché voi immaginate se un prete può dire una cosa del genere. Allora io ho detto: guarda, facciamo in questo modo, adesso ti dico come si trova un fidanzato, perché sennò non è possibile, perché tu pensi che io no, cioè tu no, perché poi un giorno ho detto: tu non preghi abbastanza. Allora, guarda, il punto è questo: se tutti i momenti liberi della tua vita tu li passi, che è una cosa bellissima, per carità, però se tutti i momenti liberi della tua vita tu li passi andando in parrocchia, andando a messa e poi a casa, cioè il Signore non può fare più nulla per te. Cioè, vedete, è paradossale. Cioè, per dire a questa persona che il suo desiderio poteva essere esaudito, ma poteva essere esaudito solo nella misura in cui lei si sarebbe fatto carico della propria vita e l'avrebbe vissuta umanamente, come dicevamo stamattina, ho dovuto praticamente dirle: guarda, esci un po' di più, frequenta un po' di più le persone della tua età, allora vedrai che lì posso pregare, perché posso dire: Signore, fa che il suo cuore si apra, che incontri una persona e possa nascere qualcosa. Ma se tu stai in chiesa con quattro persone anziane tutti i giorni e poi vai a casa perché tutto il resto del mondo è diventato un nemico, questo, ecco, praticamente la bloccava, ma poi le faceva anche pensare: Dio non mi vuole bene perché io non riesco a realizzarmi, non riesco a trovare una persona per la mia vita. Guardate che io poi ci ironizzo, ma sono anche delle grandi difficoltà. Allora, ecco, che cos'è la volontà di Dio? Qual è il legame, l'associazione che c'è tra le cose della nostra vita e Dio? È volontà di Dio che non trovi il ragazzo, dicevo poi a questa persona. Il fatto è che tu devi forse abbracciare la tua vita in un modo più ampio, più largo, che il Signore agisce nella misura in cui tu ti sai aprire alla vita e anche alla relazione con l'altro, no? Non ho passato l'esame, vuol dire che il Signore non mi vuole bene. No. Guarda, se studi, generalmente il Signore ti vuole bene. Vedete, c'è qualcosa. Allora, la volontà di Dio è un termine abusato nel nostro linguaggio. È abusato. Nessuno di noi sa qual è la volontà di Dio, se non il fatto che Dio vuole volgere la nostra vita al bene. E per questo ci ha mandato Gesù. Ma per il resto, nelle piccole cose concrete, noi dobbiamo discernere, restare in ascolto dello Spirito, sentire la vita, e poi possiamo comprendere qual è la volontà di Dio, ma mica come una certezza matematica, è una certezza morale quella che il Signore ci dà. Può darsi che alla fine della nostra vita vedremo che tante cose che abbiamo pensato fossero volontà di Dio, il Signore ci farà vedere che ci siamo ingannati. Noi siamo uomini e restiamo in questo stadio di fragilità e di nascondimento di Dio, perché non tutto è chiaro. Dice San Paolo: noi vediamo ancora come attraverso un velo. E allora lo Spirito ci aiuta a discernere, certamente a imboccare, almeno per le grandi cose della vita, le scelte giuste. Poi però, ecco, avevo piantato questa cosa ed è venuta giù la neve ad agosto, il Signore mi ha fatto... Ci sono cose che ineriscono, ecco, che appartengono alla scienza, alla natura, e noi dobbiamo avere il rispetto di dire: questa cosa qui non è Dio direttamente che interviene, non è il grande orologiaio del mondo. Ecco, quindi intanto l'associazione delle cose della nostra vita con Dio deve essere molto discreta. Impariamo la discrezione, perché Dio, lo diceva Karl Rahner, rimane sempre un mistero incomprensibile, più grande di noi, e a noi non ci fa male mentre lo proclamiamo vicino, presente, amico, e lo è, ricordare pure che c'è qualcosa che ci sfugge, che è più grande di noi, di cui avremo contezza soltanto quando passeremo l'altra riva, ecco, per intenderci. Naturalmente, molte immagini di Dio non sono cristiane, manco lontanamente. Il Dio vendicativo non è cristiano. Questa cosa noi la dobbiamo dire un po' più chiaramente. Non si può dire, io questo non lo faccio dire mai, infatti, ma non si può dire: perché ho meritato i tuoi castighi. Perché se io faccio il male e Dio mi castiga, si vendica. E se Dio si vendica, tutto quello che c'è scritto nel Vangelo non è vero. Cioè, io penso che su questa cosa ormai è arrivato il tempo che ce la possiamo dire, perché in altre epoche abbiamo avuto ancora una teologia che doveva approfondire, un linguaggio che risentiva di tante cose, tutto quello che vogliamo, io sono rispettoso di tutto questo, ma noi non possiamo, anche al mio paese c'è una preghiera, non so se l'hanno cambiata adesso, ma c'è una preghiera alla Madonna dove si chiede a Maria di allontanare i flagelli di Dio. Quindi la mamma è buona, dice: facciamoci ruffiani con la mamma, perché così interviene. Ma dove siamo? Dove siamo? Questo non è il Vangelo di Gesù, questo non è l'immagine di Dio. Allora, alcune immagini di Dio semplicemente sono anticristiane, sono antievangeliche. Di recente, questo è stato scritto anche da un vescovo calabrese, ma che è vescovo in Sicilia, ha scritto un articolo su Avvenire, a proposito anche della questione appunto dell'accoglienza dei migranti. Ha scritto: un Dio nel cui nome si fa violenza è satanico, non è cristiano. E questo deve essere chiaro, no? Perché Dio vendicativo, anzi, è contrario a quello che Gesù ha detto e ha fatto. Allora, dato di dolore, dobbiamo... Sì, adesso non... Voglio dire, io l'ho detto, adesso... non... Ma c'è anche solo il finale del Padre Nostro, no? Anche c'è il duro interpretazione, adesso... Sì, sì, lì c'è un'altra questione. Però diciamo che l'atto di dolore, anche se nessuno lo sa, è stato già cambiato. Però naturalmente tutti lo continuiamo a recitare con la vecchia formula, ed è stato cambiato proprio in questo punto, e si può non recitare, recitare un'altra preghiera penitenziale che sia, che rispecchi un po', perché vedete, adesso io parlo a delle persone che, avendo probabilmente un cammino di fede alle spalle, intendono, comprendono. Allora io posso dire: ma sì, e così rispondo anche alla domanda, ma nella Bibbia c'è un Dio che punisce? Chiaramente alcune cose nella nostra, nella fede, sono espresse attraverso linguaggi e immagini che noi interpretiamo non in maniera letterale. Scusi, nel Vecchio Testamento è tutta l'immagine di un Dio? No, no, no, assolutamente no. Assolutamente no. Poi magari leggeremo qualche passo. Ora, chiaramente, quando si dice peccando ho meritato i tuoi castighi, io posso interpretare, e so interpretare, so che cosa la Chiesa voleva dire. Il peccato genera la morte, genera il male dentro di noi. Allora, con l'espressione castigo, il castigo di Dio non è che Dio si alza, ma è l'essere senza Dio, l'essere privati dell'amore di Dio, non perché Lui ce ne voglia privare, ma perché il peccato mi ha allontanato, separato da Lui. Ma vedete come devo spiegarlo? Intanto però, siccome le parole hanno un grande influsso sulla nostra immaginazione, sul nostro cuore, sulla nostra vita, intanto io recito per una vita: ho meritato i tuoi castighi. E anche se me l'hanno spiegato, mi rimane l'idea che se pecco mi merito un castigo. Alla fine purtroppo è così. Allora è importante anche intervenire sulle parole, no? Come abbiamo fatto anche sul Padre Nostro. Si fa lentamente, ok, abbiamo i nostri tempi, ma dobbiamo farlo. Ecco, nella Bibbia questa immagine del Dio che punisce va interpretata in questa direzione qui, cioè gli autori sacri molto spesso leggono e interpretano la storia con gli strumenti che hanno, ma noi dentro questa interpretazione troviamo un significato più ampio. Allora, quando Dio, non so, prendiamo un episodio della storia di Israele, popolo di Israele pecca, e il Signore, così dice letteralmente il testo, no? Mandò dei serpenti velenosi. Noi dice: mazza, Dio della misericordia e dell'amore. È chiaro che noi il testo biblico, e questo dobbiamo farlo sempre, perché altrimenti rischiamo di fare dei grossi danni, se noi ci fermiamo alla lettera diventiamo fondamentalisti e usciamo fuori dal significato e dal messaggio biblico, ma questo vale per ogni testo sacro. È chiaro che lì l'autore sacro, con gli strumenti che aveva, linguistici, concettuali, culturali, ha voluto esprimere un'idea fondamentale, che è quella che noi dobbiamo cogliere. Se io mi allontano da Dio e dalla relazione con Lui e chiudo la relazione con Lui, allora succede che il morso del male si avventa sulla mia vita. Cioè, è chiaro che non c'è un Dio vendicativo, non esiste. Queste immagini e parole bibliche, soprattutto dell'Antico Testamento, vanno interpretate. Come si interpretano? Perché uno potrebbe dire: vabbè, ma questo chi ce lo dice? C'è un criterio, anche qui, semplice. La Scrittura si interpreta a partire da Gesù, a partire dalla Pasqua. Non si interpreta a partire dalla Genesi solo perché è il primo libro, perché non la capiremo mai. Allora, a partire dal Dio che ci ha rivelato Gesù, comprendiamo che cosa significa. Se rimanete nel mio amore, e allora, ma se non rimanete nel mio amore, ecco i serpenti velenosi. Cioè, partiamo dalle parole di Gesù, dalla vita di Gesù, dal volto di Dio che Gesù ci ha manifestato, e rileggiamo l'Antico Testamento, dove peraltro troviamo espressioni di una potenza incredibile. Come potrei dimenticarmi di te? Come potrei abbandonarti, dice Dio a Israele, se anche i tuoi peccati fossero rosso come scarlatto? Io, cioè, questo è il Dio. Avete mai letto il profeta Osea? Sì. È proprio la compassione di Dio, l'amore di Dio per il suo popolo. Allora, vedete, l'Antico Testamento è un libro un po' complesso, naturalmente, va interpretato, però dobbiamo stare attenti a che l'interpretazione giusta. C'è anche uno schema a volte nella costruzione dei libri, no? Lo schema è l'alleanza che Dio stabilisce con il popolo, la trasgressione di questa alleanza, la minaccia del castigo, il pentimento, il perdono da parte di Dio che rinnova l'alleanza. Questo schema è nella testa dell'autore, e per dar vita a questo schema lui racconta dei fatti. Ma che cosa cogliamo di questo schema? Qual è il cuore? Che anche se trasgredisci e pecchi, Dio rinnova l'alleanza. Cioè, noi dobbiamo andare al cuore. Se ci prendiamo il singolo episodio, dice: mamma mia, Dio ha mandato dei serpenti velenosi, è chiaro che ne viene fuori un Dio. Che dobbiamo leggere la scrittura in tutta la sua unità, e a partire da Gesù. Quindi questo è importante. Mi scusi, però, abbia pazienza. Però, allora, prima della venuta di Gesù, come interpretavano queste cose? Vivevano alla luce di questi insegnamenti così? Vivevano alla luce, certo. Vivevano alla luce di questi insegnamenti che già aprivano all'incontro con il Dio dell'amore e della misericordia, in una pedagogia che andava crescendo, cioè quello che poi ci spiega Paolo più tardi, no? All'inizio c'è tutto un cammino che è graduale, questo è chiaro, no? Allora già si intravede, perché voglio dire, il Dio dell'Esodo è il Dio compassionevole che ascolta il grido del suo popolo e scende per liberarlo. Naturalmente la pienezza di questo incontro avviene con Gesù, e quindi prima di Gesù tutto questo è un cammino graduale. C'è una pedagogia attraverso cui Dio guida il suo popolo alla scoperta del suo vero volto, e questa pedagogia passa attraverso diversi stadi e momenti della storia, e vabbè, questo è chiaro, no? È chiaro. Detto tutto questo, naturalmente l'idea non è quella di crearsi una buona immagine di Dio, ma quella di mettere a confronto tutto ciò che noi immaginiamo, pensiamo, crediamo, diciamo di Dio con l'immagine che Gesù ci ha dato del Padre. Ricordatevi che a chi chiede com'è Dio, dove si può incontrare Dio, Gesù dice: io ve l'ho rivelato. Il volto di Dio è Gesù che ce lo rivela. Chi è Dio? È Gesù che ci rivela chi è Dio, no? Gesù lo dice a Filippo nel dialogo. Allora, sono d'accordo, ogni immagine di Dio rischia di essere una proiezione, e questa parola proiezione è una parola molto importante, perché è una parola che è stata usata molto nell'ambito marxista, ma è Feuerbach che parla di proiezione e non Marx. Ora, questa è una critica che può fare molto bene alla fede, perché a volte nel credere c'è un Dio che viene immaginato e che non è altro che la proiezione di tutti i bisogni e di tutte le situazioni, che poi invece, diceva Feuerbach, potrebbero essere spiegate in un altro modo, e quando saranno spiegate in un altro modo Dio scomparirà. Questo è molto importante, perché mette sotto accusa certe nostre immagini di Dio, quindi è una critica salutare. Al contempo quello che manca a questa critica di Feuerbach, come anche a quella di Freud, a dire la verità, a entrambi preferisco quella di Nietzsche, è che hanno messo in stretta relazione Dio con l'utilità. Cioè, se la scienza, la religione, la ragione, la politica riusciranno a spiegare tutti i misteri che adesso sono spiegati dalla religione, la religione morirà, perché è solo una proiezione di tutto ciò che l'uomo non riesce ad ottenere, ad avere e ha. Il problema è che Dio non serve alla nostra vita, cioè non è utile alla nostra vita semplicemente per risolvere delle questioni o per rispondere a dei bisogni, ma è una realtà che tocca più in profondità la nostra esistenza. Cioè, uno scienziato mi può spiegare perché avviene un terremoto. E il tema di cui parlavo stamattina, io sono grato alla secolarizzazione che attraverso la scienza mi spiega che cos'è un terremoto e finalmente distrugge quell'idea che c'era evidentemente nel cristianesimo di qualche secolo fa, che se c'è un terremoto questo è colpa di Dio. Quindi io sono grato allo scienziato che mi spiega perché avviene un terremoto. Ma se io chiedo a questo stesso scienziato perché, nonostante io so che cos'è un terremoto e so oggi tante altre cose che prima non sapevo e ho a disposizione tanti mezzi per comprendere la vita, perché nonostante tutto questo non sono felice? E lo scienziato mi dice, beh, ma questo non rientra nel metodo scientifico. Ma non è su un piano psicologico? È su un altro piano, ma anche lo psicologo lo può spiegare fino a un certo punto. Cioè, quello che voglio dirvi, riprendendo anche una affermazione di un teologo protestante che si chiama Jung, Dio non è necessario, Dio è più che necessario. Se Dio fosse solo necessario, Feuerbach avrebbe ragione. Quando tutte queste necessità saranno spiegate in altro modo, perché il progresso, la scienza andranno avanti, Dio finirà. Diventa solo una proiezione. Ma Dio è più che necessario perché va oltre le necessità immediate, epidermiche, i bisogni, e rappresenta un tutto che nessun altro mi può dare. Naturalmente per questo che sto dicendo c'è bisogno di uno sguardo di fede più grande, no? C'è bisogno di qualcos'altro. Allora attenzione, perché Dio può diventare una proiezione dell'uomo, è vero, le immagini di Dio possono essere una proiezione dell'uomo, e dobbiamo non creare un'altra immagine di Dio, ma verificare la nostra vita e il nostro cammino di fede a ciò che Gesù ci ha detto del Padre. E poi pensate, io lo faccio sempre questo esperimento, perché poi capitano le domeniche con questi Vangeli, no? Per certi versi bellissimi ma anche difficili, e faccio qualche domanda alle persone, poi c'è sempre qualcuno che viene dopo un po' sconvolto. Ma voi pensate a come Gesù rovescia la nostra idea di Dio quando decide di dirci che all'operaio dell'ultima ora dà la stessa paga. E io ho delle persone che mi hanno detto, ma io sono indignato per questa cosa. Molto bene se sei indignato, perché Gesù sta venendo a, il Vangelo viene a contestare un'immagine che tu hai di Dio, e qual è? Che se tu sei più bravo devi ottenere di più, e invece Dio non è così, perché la giustizia di Dio è più ampia, è più grande, è la giustizia dell'amore, e io devo gioire se l'ultimo arrivato mi passa avanti nel regno dei cieli, e non devo giocare sui meriti. Ma noi invece nel rapporto con Dio giochiamo sui meriti. Allora io sono stato qui una vita, il figlio maggiore della parabola, che siamo tutti noi. Io sono qua, lui si è sperperato tutti i soldi e tu per lui fai festa. Vedete, il criterio di Dio è diverso. Allora, se noi ci mettiamo in ascolto del Vangelo, le nostre immagini di Dio, state tranquilli, che diventano contestate, criticate, e così evitiamo di fare di Dio una proiezione della nostra vita. E dico l'ultima cosa, che è però in teologia, devo dire, molto affrontata, la questione dell'onnipotenza. L'aggettivo onnipotente associato a Dio è molto contestato a partire da Auschwitz. È nata proprio una teologia dopo Auschwitz, si chiama proprio teologia dopo Auschwitz. E dopo Auschwitz molti si sono chiesti Come possiamo credere in un Dio onnipotente dopo questa tragedia? Se è onnipotente, perché? E siamo al discorso di prima, però, perché non l'ha evitata? Allora, la domanda classica di questo grido, che è il grido del libro di Giobbe, è: dove era Dio mentre succedeva tutto questo? E questo teologo che vi ho citato stamattina, Metz, dopo molti anni di riflessione su questo tema, ha rovesciato l'interrogativo e ha detto: scusate, proviamo a chiederci un'altra cosa, dov'era l'uomo quando è successo Auschwitz? Dov'è la nostra umanità mentre le persone stanno morendo in mare? Perché poi quando succedono queste cose diciamo: vedi, è come Dio ci ama e fa morire le persone in mare, perché è Dio che le fa morire in mare. Allora, molti teologi, e su questo mi piace anche segnalare questi studi che ha fatto Daniele Garota, che è, credo, un filosofo più che un teologo, alcuni hanno proposto proprio di togliere l'aggettivo onnipotente. L'onnipotente, per esempio Hans Jonas, che è un ebreo, dice: Dio non può essere più onnipotente, o è buono o è onnipotente, perché se è onnipotente come ci spieghiamo il male? Però questa è una posizione radicale. Altri hanno detto: proviamo a capire che cosa significa onnipotente, perché onnipotente non significa che può tutto, letteralmente significa questo, ma Dio, secondo voi, può tutto? No. Ma io dico, Dio ha creato l'uomo intelligente, poi è l'uomo che deve darsi da esatto fare. Dio può tutto nel bene, certo. Dio non può fare il male. Quindi già c'è qualcosa che Dio non può fare, perché Dio è amore. Non può fare tutto ciò che è contrario all'amore. Allora François Varillon, teologo francese, molto, molto interessante la sua produzione, dice: Dio è onnipotente solo nell'amore, può fare solo ciò che l'amore può. E tant'è vero che questa immagine di un Dio debole è l'immagine del cristianesimo. È il Dio che muore sulla croce. E Paolo dice, a questo proposito, no, la debolezza di Dio, ecco, quello che ci guarisce, che ci salva, è stoltezza per tutti gli altri, perché per tutti gli altri Dio deve essere un vincitore. Il nostro Dio è morto sulla croce, eppure proprio quella debolezza di Dio è per noi salvezza. Perché? Perché è onnipotente solo nell'amore, ed è l'amore che ci salva, non è il potere. Onnipotente dice un potere, ma Dio non ha potere di fare ciò che è contrario all'amore. Dio può fare solo ciò che l'amore può, scrive Varillon in questo bel testo che si chiama Gioia di vivere, gioia di credere, una cosa del genere. Dio può fare solo ciò che l'amore può, perché è un Dio debole. Ha un debole per l'uomo, perché è un Dio innamorato. E allora, onnipotente, intendetelo in questo modo. E se non ci riuscite, toglietelo, perché non è importante. Non è importante. Il potere che noi dobbiamo dare a Dio è quello di entrare nella nostra vita e di cambiarla nell'amore, perché Dio vuole esercitare il potere dell'amore, quello che lava i piedi ai suoi discepoli. Non c'è un'altra onnipotenza di Dio, ma anche qui solo Gesù ci mostra questo volto di Dio. Scandaloso, molto scandaloso, perché i discepoli di Emmaus dicono: noi speravamo che fosse lui a liberare, cioè che fosse finalmente arrivato il trionfatore di Israele. E invece, con tutto ciò, sono passati 3 giorni ed è morto come il peggiore dei malfattori sulla croce. Debolezza di Dio, dice Paolo, ed è questa la vittoria cristiana, la vittoria dell'uomo. Anche qui, no, è un paradosso un po' scandaloso, però questo è ciò a cui Gesù ci porta. Così ho risposto a un primo gruppo. Grazie. Posso chiedere? Sì. Cosa si deve rispondere a quelle persone che dicono: tanto ognuno di noi ha il proprio destino, anche per la morte? Per cui io penso qualche volta che invece tanto adesso dobbiamo fare tutto quello che è possibile, sia nella malattia, sia... No, certo. Tanto il destino ce l'abbiamo già e nessuno ce lo toglie. Io ne sento di questi esempi, sì, tantissimi. Sì. Boh, solo quello, lo chiedo. Penso che in parte abbiamo già risposto, no? Sì. L'emergere casomai oggi in maniera ancora più forte, della questione del destino, dice una cosa anche abbastanza curiosa, che noi, l'aveva detto già Chesterton questa cosa, quando si toglie Dio dalla vita si creano tanti idoli, noi a furia di eliminare la relazione con Dio, di per sé, in nome poi no, della ragione, della ormai autonomia raggiunta da parte dell'uomo, in realtà abbiamo creato tantissimi idoli. Cioè, siccome non sappiamo stare poi senza questo rapporto con qualcosa che ci supera, c'è gente che in nome della ragione ha tolto Dio dalla propria vita e legge l'oroscopo tutti i giorni, sì. Che è una follia, perché siamo nel campo della superstizione. Allora, credere nel destino è superstizione. È pieno di gente. È superstizione. Naturalmente, crede nel destino anche chi pensa, cioè pensa che questo appartenga alla costellazione della fede cristiana, perché, come dicevamo prima, associa tutto ciò che nella nostra vita avviene a un disegno prestabilito di Dio. E anche qui dobbiamo stare attenti. C'è un progetto di Dio sulla nostra vita? Sì. C'è una volontà di Dio sulla nostra vita? Sì. Che cosa significa? Che il mio destino è già segnato? No. Capite? Sono due cose. Io quando sono entrato in seminario, dovevo ancora entrare, e stavamo facendo come dei colloqui, diciamo, introduttori. Un formatore del seminario, con il quale poi sono rimasto in ottima amicizia, mi disse: secondo te, se la vocazione al sacerdozio è un assegno che Dio ha staccato per te, tu che cosa vedi in questa assegno? Io non ho saputo rispondere, ho detto: ma quando mai? Io venivo da questa idea, no, molto all'inizio, no, diciottenne, insomma, devo diventare prete, venivo da un'idea un po' più angelica. E lui però mi fece riflettere molto con questo esempio, mi disse: guarda, tu inizierai questo percorso, sappi che sull'assegno la firma di Dio c'è, l'assegno non è scoperto, ma tutto il resto dei dati li devi mettere tu. Allora, il progetto di Dio sulla nostra vita, la predestinazione, è che sulla nostra vita c'è la firma di Dio. Il Signore vuole la nostra salvezza, il Signore vuole portare a bene la nostra vita e vuole che la nostra vita si realizzi pienamente. Ed è accanto a noi tutti i giorni della nostra vita perché questo accada. Cioè, la sua fedeltà non verrà meno, l'assegno non è in bianco. Ma poi la cifra, i dati, le cose, se io ci metto il nome di un altro, Dio non può fare più niente. Allora non esiste il destino, esiste un grande progetto di Dio sulla mia vita, che anche poi si realizza in una chiamata specifica, evidentemente, ma che passa attraverso la mia scelta, la mia libertà. Cioè, tu sei diventato prete perché eri destinato? No, io sono diventato prete perché questa era la chiamata di Dio. Io l'avrei potuto disattendere. Questo era il progetto di Dio su di me, io l'avrei potuto disattendere. E Dio mi avrebbe lasciato libero. Probabilmente sarei stato infelice, ma Dio mi avrebbe lasciato libero. Hai sposato questa, vedi, era destino che incontravi questa persona al bar. No, non era destino. Il Signore ha creato delle occasioni, questo sì, ma tu fino all'ultimo giorno della vita, fino all'ultimo giorno prima del matrimonio, potevi scappare, anche scappare con un altro. Cioè, non mettiamo mai la volontà di Dio in contrapposizione con la nostra libertà, e così ci togliamo anche dall'idea del destino, che annulla la nostra libertà. Se esiste un destino, tutto quello che io faccio è inutile, quindi non vale la pena, no? Perché tanto è tutto già segnato, eppure noi sappiamo dalla vita che molto spesso non è così. Quindi, ci sono anche altri, quindi altre due domande. Prego. Due cose. Una è questa: mi sembra che oggi, in questa sorta di movimento pendolare che c'è stato anche nell'antologia di quest'ultimo secolo e mezzo, due secoli, diciamo, riemerga in molti, molti luoghi, in molte persone, l'istanza di sottolineare maggiormente la dimensione dell'alterità di Dio rispetto all'esperienza di dimensione del quotidiano. Cioè, intendo dire che le persone, poi anche molte culturalmente formate, sia in ambito teologico che in ambito spirituale, emerge un po' questo fastidio per un appiattimento eccessivo della dimensione, diciamo così, del sacro sulla dimensione della profanità, diciamo. E questa cosa si avverte, si sente, ecco. E naturalmente poi può produrre un tipo di rapporto, appunto, con la fede, fondato proprio su quella dimensione della contrapposizione tra la dimensione, diciamo, del sacro, intesa come dimensione della fede, la dimensione della profanità, della secolarizzazione, tutto ciò che è secolare viene appiattito su questa dimensione. Ecco, come fare a mantenere in questo senso un giusto equilibrio, no? Come fare a leggere i segni del tempo, perché in realtà, giustamente nell'intervento di stamattina, a un certo punto è stata richiamata la categoria del post-secolare, si è detto, ma no, post-secolare non mi convince. Però è anche vero che nell'estrema consumazione, no, del secolarismo stesso, no, una vita sempre più senza senso, sempre più appiattita sulla dimensione dell'orizzontale, a un certo punto forse c'è una via di uscita, o sta emergendo una via di uscita diversa rispetto a tutto questo, no, che va piuttosto nella direzione della riscoperta di una trascendenza, diciamo, una dimensione della fede più dialettica rispetto. Quindi mi chiedo un po', appunto, quali sono i segni del tempo di oggi, cioè sono quelli degli anni 60, 70, 80, del secolo scorso, o sono invece dei segni di tempi un po' diversi, ecco, e come fare a tenere conto anche di questa dimensione? Altri? Prego. Detto che il criterio dell'immagine di Dio è Gesù Cristo. Gesù Cristo noi lo conosciamo attraverso la Chiesa, ma quello che mi ha colpito molto stamattina è che diceva che la Chiesa di Costantino è molto diversa dalla Chiesa di oggi. Quindi chi ci dice oggi che la Chiesa di oggi è quella giusta? Ah, no, non esiste. Devo dire che tutto quello che ha detto e quello che dice risuona in un cammino di fede che è stato portato avanti negli anni, quindi sono contento di sentire questa cosa. Però nesso di riferimento dall'esterno, sì, ma forse la Chiesa che cambia idea adesso, ovviamente, nel corso dei secoli, ma sopravviva, non è quello che penso. Però c'è questo discorso della Chiesa che evolve, e quindi il pensiero su Cristo che la Chiesa ha come quello. Sì. Se ne faccio ancora una terza. Così vi faccio venire la voglia di leggere questo libro che si titola Incredulità. Vedendo il titolo dico, ma no, io cerco di essere credente, non mi interessa. Invece questo libro fa parte di una collana che si chiama Le parole della fede. In che senso? L'incredulità è una parola della fede. Io volevo ancora collegarmi all'ultimo argomento. È suo. È lì, là. Volevo collegarmi all'ultimo intervento, perché mi viene tante volte da pensare che la nostra visione distorta di Dio o della fede o il poco rapporto con Gesù, insomma, tutte queste cose che in qualche modo non ci aiutano, derivano da una presentazione che la Chiesa stessa ci ha fatto fin da quando eravamo piccoli, e quindi si sono state inculcate delle idee distorte, e quindi mi sto chiedendo, cioè, come si può rimediare a questa cosa? Probabilmente dando delle dritte particolarmente efficaci proprio ai ministri, cioè a quelli che hanno la responsabilità di educare, diciamo così, il popolo a una visione corretta di Dio. Perché il fatto che nel Padre nostro ci sia ci sia questa frase che assolutamente non è più accettabile, però è stata messa, e quindi penso che la Chiesa fortunatamente adesso dà dei segnali di cambiamento, quindi cambiamento anche rispetto al passato, eccetera. E però penso che abbia una grande responsabilità, proprio perché noi poi, per conto nostro, abbiamo cercato in qualche modo di rimediare, no? Nel senso che quando qualcosa non ci tornava di quello che la Chiesa ci aveva insegnato, e allora o ci siamo allontanati, oppure per conto nostro abbiamo cercato con fatica di arrancare e di cercare di arrivare. Io, cioè, voglio dire, secondo me lo stiamo ancora facendo. Certo. Ecco. Il tema della alterità di Dio è vero, è tornato, insomma, abbastanza prepotentemente anche negli studi degli ultimi decenni. Io penso che sia importante e necessario mantenere questo paradosso. Ricordiamoci sempre che Dio è, e questo è molto visibile anche nella scrittura, Dio è colui che si presenta con io sono colui che sono, cioè la trascendenza, diciamo così, assoluta, e che poi mette davvero la sua tenda in mezzo al popolo di Israele, segue il popolo con una nube, con una colonna di fuoco, eccetera. È colui di cui non si può vedere il volto, però appunto scende per liberare il suo popolo. Cioè, queste due realtà devono essere tenute in grande equilibrio, perché non va bene né l'appiattimento sull'orizzontale né una trascendenza disincarnata, che naturalmente non sarebbe cristiana. Certo è che noi viviamo una secolarizzazione molto diversa da quella degli anni 60-70, questo è evidente, è una secolarizzazione meno sociologica, forse meno politica, che interessa di meno le strutture esterne, ma semplicemente perché lì è stata già raggiunta da tempo, quindi non ce n'è più bisogno. Io concordo molto con l'analisi che fa Metz quando dice alcune visioni, alcune immagini della vita secolare sono ormai nella coscienza dell'uomo. Quindi non sono d'accordo sul fatto che ci sia una specie di rivincita da parte di Dio o della religione, perché noi siamo secolari oramai, cioè oramai è la coscienza ad essere stata secolarizzata, sono le basi stesse della coscienza umana. Questo non è un giudizio morale negativo, è forse una lettura della realtà, e naturalmente questo esige che noi adesso ci rivolgiamo non più a quel tipo di secolarizzazione, ma appunto ad un annuncio che sappia toccare poi il cuore, la vita delle persone e quant'altro. Penso che su questo, anche su questo, il pontificato di Francesco è un grande input, no? Questa capacità di parlare al cuore delle persone, di andare a scoprire anche qual è la sete che oggi c'è. Certamente c'è una sete di spiritualità, a me sembra che sia ancora molto vaga, che sia ancora molto orientata, aperta, diciamo così, a una credenza, diciamo così, molto new age, molto, ecco, senza che ancora si sia arrivati al rapporto con un Dio personale, ecco. Però certo, questo è un segno su cui bisogna lavorare, un segno che deve stimolare anche la nuova evangelizzazione e quant'altro. È tutto vero quello che avete detto, tant'è vero che a completamento della discussione sull'immagine di Dio, bisogna avviare quello sulla immagine di Chiesa, e le due cose sono strettamente legate. Anche qui però stiamo attenti, il rapporto non è assoluto. Devo dire una cosa un po', diciamo, difficile se non si capisce bene, e allora cerco di farlo nel modo più semplice possibile. È vero che la Chiesa, essendo il corpo di Cristo, è mediazione dell'incontro con Dio e che Dio effettivamente si lascia incontrare attraverso questa mediazione. Però il carattere di questa mediazione, adesso qui devo usare una terminologia che alla dottrina della fede non piacerebbe molto, ma è per capirci, il carattere di questa mediazione non è assoluto in senso stretto, perché assoluto in senso stretto è la nostra coscienza, non dimentichiamocelo mai. Cioè la Chiesa è una mediazione, ed è la mediazione principale che Gesù ci ha lasciato. Quando dico la Chiesa dico naturalmente la vita nello Spirito, quindi dico la parola, dico l'Eucaristia, dico la vita sacramentale, dico la comunità e non dico le mura, naturalmente. Però attenzione, perché da questa mediazione ne deriva poi una ulteriore mediazione, che è l'incontro tra me, tra la mia coscienza e Dio. Questo incontro è mediato dalla Chiesa, ma la Chiesa è strumento, se volete lo strumento privilegiato, però c'è anche la mia coscienza, c'è anche la mia situazione personale davanti a Dio. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che certamente un'immagine di Chiesa negativa, distorta, sbagliata, una predicazione distorta, negativa, certamente tutto questo influisce per la creazione di un'immagine negativa di Dio, e va bene, ci siamo, è chiaro. Però questo non è un rapporto matematico, perché quando io dico dobbiamo tornare a Gesù e mi si dice sì, ma Gesù ce lo presenta la Chiesa, in un certo senso, perché se io, che ho ricevuto il dono dello Spirito e cammino nella Chiesa e faccio un cammino nella Chiesa, mi metto a casa mia, per esempio, a fare una meditazione sulla parola di Dio, io posso incontrare Gesù e il vero volto di Dio, e questo avviene attraverso la mediazione della Chiesa, ma senza che io abbia ascoltato la predica del mio parroco. Non so se mi spiego. Cioè, ci sono le mediazioni e sono, diciamo, in qualche modo anche ufficiali, le mediazioni della Chiesa, la vita sacramentale, la predicazione, la catechesi, eccetera, ma tutto questo patrimonio passa a me perché io poi faccia dei passi personali nei confronti dell'incontro con Dio. Quando io dico, come ho detto stamattina, ritornare a Gesù, lo dico naturalmente per tutta la Chiesa, e quindi lo dico per chi deve predicare, per chi deve annunciare, per chi deve fare le catechesi, per chi deve scrivere i libri, cioè tutta la Chiesa deve convertirsi all'immagine di Dio che Gesù ci svela. E quando tutta la Chiesa fa questo tipo di cammino, rimane comunque un margine, e il margine è la mia coscienza, la mia relazione con Dio. Sono stato molto contento di aver sentito, quando non ci tornavano i conti, è chiaro che è molto più difficile, cioè è molto più facile che se non tornano i conti la gente se ne va, soprattutto quando fa esperienze di Chiesa che sono esperienze di ostilità, di rigidità, di chiusura. Chiaramente non dobbiamo evitarlo fino al possibile, però ricordiamoci che la Chiesa è in cammino anch'essa alla scoperta di tutta la verità, ed è il Vangelo di oggi: lo Spirito vi insegnerà, no? In un altro passo Gesù dice vi porterà la verità tutta intera. Non ce l'ha neanche la Chiesa. La Chiesa non è assoluta, assoluto è il Regno di Dio, la Chiesa è relativa al Regno di Dio e quindi è in cammino verso la verità tutta intera. Certo, noi dobbiamo fissare qualche punto, allora viviamo nella Chiesa del 2019 e prendiamo l'immagine di Dio che questa Chiesa ci dà, ma non è la più perfetta, perché la Chiesa cammina, cioè non è che cambi opinione, ma cammina, e la luce dello Spirito la fa camminare e la fa cambiare. Quindi noi, naturalmente, che siamo esseri storici e siamo in cammino, oggi prendiamo quello che la Chiesa ci dà, però lo prendiamo anche con un minimo di intelligenza e anche di relazione personale con Dio. E se non mi tornano i conti, dico fammi approfondire, perché poi, sapete, noi diciamo Chiesa, ma noi quale esperienza di Chiesa abbiamo? Ne abbiamo una, la nostra parrocchia, Ma se non ti tornano i conti e vuoi scoprire davvero chi è Dio, puoi, no, fare altro. E penso che anche l'esperienza della tenda sia un po' così, no? Non è esattamente un cammino parrocchiale, questo è un cammino d'approfondimento. Probabilmente avrete sentito delle cose che non sempre combaciavano con altre cose. Ho sentito qualcuno di voi, no, prima, che mi diceva: beh, noi siamo cresciuti con tutt'altri messaggi sul cristianesimo. Va bene, cioè nel senso che viva Dio che lo Spirito ci sta guidando alla verità tutta intera, però non si assolutizza neanche il ruolo della Chiesa, per quanto necessario e importantissimo, perché c'è un margine in cui noi dobbiamo tornare a Gesù. E quando io dico tornare a Gesù, dico torniamo alla parola e torniamoci come Chiesa, cioè anche la Chiesa è sottomessa alla parola di Dio. Questo ce l'ha detto il Concilio Vaticano II ed è chiaro. Per cui la Chiesa fa tutto quello che può fare per darci un'immagine di Dio buona, la migliore, ma la attinge dalla parola di Dio e lì deve continuamente verificarla. Ed è un cammino che dobbiamo fare insieme, preti, laici, vescovi, papi. Pensate, poi, tutto questo noi non lo dobbiamo vedere come un caos. Dice, vabbè, allora se incontro una Chiesa che mi presento un buon Dio, sono fortunata, altri no. Noi dobbiamo credere che lo Spirito Santo guida la Chiesa, perché poi ci sono anche nella Chiesa delle istanze. Adesso io non voglio suscitare, no, ribellioni varie contro i miei colleghi, ma insomma, se io non sono proprio d'accordo con il mio parroco, può darsi che è successo qualcosa, può darsi che la nostra relazione spirituale, parlo non di altre piccole cose, non funziona. Può darsi che il mio incontro con Dio in quella realtà parrocchiale non sia, però un'altra cosa è se io contraddico il Papa, no? C'è anche una gerarchia anche di valori, voglio dire, non so. Allora pensate a tutto quello che sull'immagine di Dio sta facendo Papa Francesco. Leggete le sue omelie e uno dice: lo Spirito Santo guida la Chiesa. Dice: sì, ma il mio parroco dice il contrario. E allora i conti non tornano, ma tra il parroco e Papa Francesco bisogna fare una scelta. E voi capite quale scelta dobbiamo fare. Cioè, per dire che poi quando si dice alla Chiesa si dicono tante cose. Una cosa è il magistero del Papa, dei Vescovi, un'altra cosa è il mio parroco, che io devo pure accompagnare, ascoltare, però non nel senso di un'obbedienza cieca. Noi abbiamo una coscienza. Ma sapete, tutto questo avviene quando il popolo di Dio è formato, ed è formato dalla parola. Altrimenti, dice, no, ma il mio parroco mi ha detto che siccome io sono convivente vado all'inferno. No. Ora dico, io quando qualcuno viene a dirmi, guarda, è un'esperienza spiacevole, però ragioniamo da uomini adulti, da persone adulte e intelligenti. Secondo te è vero questo? Cioè, secondo te il tuo parroco ha detto proprio la verità? È la verità solo Gesù. Allora, forse avrebbe voluto dire qualcos'altro, l'ha detto male, o forse, no? Cioè, bisogna un po' essere critici, ma per essere critici dobbiamo essere formati sulla parola. Se il mio parroco dice una cosa del genere, io dico, beh, mi sembra che questo Dio è un po' diverso da quello che Gesù ha annunciato, ma per fare questo devo conoscere Gesù, e per conoscere Gesù certamente devo avere un'esperienza di Chiesa, ma forse devo anche maturare in questa esperienza di Chiesa un cammino di formazione alternativo, che può essere appunto il cammino sulla parola, il cammino d'approfondimento biblico, teologico, spirituale. Dobbiamo essere protagonisti attivi della formazione spirituale e non soltanto la Chiesa ci ha insegnato questo, siamo delle povere vittime. La Chiesa siamo anche noi, siamo tutti noi, con tutti i difetti e i limiti e le difficoltà che abbiamo potuto incontrare in una certa esperienza di Chiesa. Io questo lo so, e nel mio prossimo libro parlerò anche di questo, di come a volte l'esperienza di Chiesa non ha facilitato l'incontro con Dio. Però dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo cercare un'altra via per incontrare il Signore. E l'incredulità, rispondo solo brevemente prendendo proprio una suggestione di questo libro, l'incredulità è una parola della fede, perché la fede non è esente dal dubbio e dalla fatica. Avere fede non significa avere tutte le cose a posto, tutte le cose già spiegate, e né gli uomini di fede, come siete voi, hanno, diciamo così, degli sconti su alcune questioni della vita, perché se succede una tragedia nella vostra famiglia, anche a voi verrà da dire: ma dov'era Dio in quel momento? Ed è una domanda giusta, è una domanda che noi troviamo nella Bibbia. Se leggete il libro di Giobbe, è meraviglioso, lì c'è un cambiamento dell'immagine di Dio straordinario rispetto a quella degli amici di Giobbe, c'è un'altra immagine di Dio. La fede viaggia sempre nell'ombra, nella penombra, nella fatica, ecco, della relazione con Dio, proprio perché Dio non è a nostra disposizione, pur essendo un Dio vicino, e non ce l'abbiamo come un oggetto che teniamo in tasca. Allora la nostra preghiera, il cammino della nostra vita, è sempre sotto il segno di questa parola evangelica: credo, ma aiuta la mia incredulità. O se volete, il nostro fratello Tommaso, che noi maltrattiamo spesso. Io invece, quando c'è quella domenica, dico: guardate che Tommaso ci rappresenta. Cioè l'evangelista ci racconta questa storia per dirci che il discepolo è Tommaso, è colui che vuole vedere, vuole toccare, e che in certi momenti la sua fede vacilla. E di questo noi dobbiamo essere sereni su questa cosa, perché i più grandi santi e i più grandi mistici hanno vissuto la cosiddetta notte oscura della fede. Quindi l'incredulità appartiene in qualche modo al cammino del credente. Il credente è sempre o minacciato o toccato dall'incredulità. E dico due cose a questo proposito: la notte della fede, che tutti conosciamo in questi grandi santi come San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila, però c'è una santa a noi più vicina, che è Madre Teresa di Calcutta, la quale ha scritto nei suoi diari, che poi sono stati pubblicati dopo, che faceva l'adorazione eucaristica anche per 2 ore, e scrive: sentivo dentro di me solo ghiaccio, cioè come se Dio, e questo per anni. Quindi pensate, questa persona che tutti noi abbiamo visto accanto ai poveri, uno deve dire, questa deve avere proprio il Signore, no? Ho sentito per anni soltanto ghiaccio, cioè è bello da un certo punto di vista, perché vuol dire sono esperienze che sono vicine alla fatica che facciamo pure noi. E nel testo cito il Cardinal Martini, che nella prima cattedra dei non credenti disse questa cosa interessante. Dice: talvolta noi dividiamo credenti e non credenti solo per comodità, perché in realtà il non credente abita dentro di noi, ma siccome ne abbiamo un po' paura e non vogliamo farci i conti, lo espelliamo e facciamo finta che noi siamo i bravi perché siamo dentro, e i non credenti sono tutti quelli che sono fuori. E invece lui dice: c'è un non credente in ciascuno dei credenti, perché c'è la fatica, c'è la domanda, c'è il dubbio, ci sono situazioni e momenti della vita in cui ci viene difficile credere. Anche Ratzinger, prima, nel 78-79, nelle prime pagine della sua opera Introduzione al Cristianesimo, dice che dubbio e fede, ecco, ci attraversano, ci abitano, e il credente e il non credente sono più vicini di quanto si possa pensare. Entrambi vivono, dice lui, l'ineluttabile potenza del forze, cioè del dubbio, perché anche la nostra fede non è un'assicurazione sulla vita, è una fatica, è un cammino. Questo cammino siamo toccati dall'incredulità, quindi l'incredulità è parente stretta della fede e ci accompagnerà fino all'ultimo giorno, è un pizzico di incredulità, ci accompagna sempre. Allora, in questo senso è una parola della fede. Bene, ancora un quarto d'ora. Volevo dire una cosa un po' in generale, che ho sentito tornare anche nei discorsi di oggi, ma non è proprio una domanda, un'osservazione. Mi sembra che noi abbiamo fatto della parola incarnazione un articolo di fede, una roba che bisogna credere che Dio si è fatto uomo, no? E mi sembra che questo ci abbia portati a fraintendere quella roba, cioè, ma non era così la storia, non era una cosa da credere, è una cosa a cui guardare per capire capire qualcosa di chi è Dio, per capire qualcosa di chi siamo noi, capire una, tantissime altre cose che si possono cercare un po' di capire solo appunto tornando ostinatamente a questa vicenda di Gesù, a ciò che a tutta la sua vicenda, dal tempo in cui è vissuto, da come è vissuto, da quel che ha detto, da quel che ha fatto, da come è nato, da come è morto, eccetera. Ma è veramente guardare a questo tema dell'incarnazione, vuol dire guardare Gesù, non è una roba che così, un pacchetto, ah, tu credi questo, boh, sei a posto, no? Non ti serve a niente detto così, certo. Perché o ti cambia la vita questa roba qua, oppure poi anche, non so, se metterlo in quel posto, perché veramente diventa una roba assolutamente insignificante. Allora, c'è un po' pubblicitario. Volevo solo fare un brevissimo. Viene terminato con la parabola del Samaritano. Volevo chiedere, il Samaritano credeva in Dio? Questa è una bella domanda. Terza domanda e ultima. In questo libro qui, Francesco dice, si tratta di coinvolgerci empaticamente nella pasta del mondo, portandovi il lievito del regno di Dio e mettendo alla porta tre tentazioni che minano come un male sottile la trasmissione della fede: il fariseismo, il paganesimo e la consolazione. Dato che nell'intervista il direttore ci ha detto più volte 4.000 battute, ma poteva mandare, non spiega che cos'è fariseismo, paganesimo e consolazione, ce lo spiega adesso. E su questo libro qui, che è stato scritto assieme a Domenico Cravero, che è un prete molto bravo di Torino, anche questo ve lo consiglio, è molto bello. E lì? Sono d'accordissimo sulle due osservazioni, cioè l'incarnazione, ma poi come altri aspetti della nostra fede, se si riducono a un articolo di catechismo, chiaramente non toccano in maniera reale la nostra vita. Però in modo particolare l'incarnazione è, alla fine, che cos'è? È il modo attraverso cui Dio si è voluto rendere presente nella nostra vita, no? Domenica prossima, che sarà la Santissima Trinità, adesso padre Daniele, tu mi dici se dico una cosa buona o no. Per chi deve fare un'omelia è una specie di tragedia, no? Ci arrampichiamo sugli specchi con tutte le analogie possibili, la famiglia, le relazioni. Ok. Perché appunto il mistero di Dio poi nella sua essenza, vedete, è altro, no? È trascendente, bisogna più adorarlo che parlarne. Però io stavo pensando in questi giorni, proprio sulla Trinità, questa cosa qui, se Dio avesse voluto semplicemente darci delle leggi, delle norme, delle indicazioni, una parola dall'alto, sarebbe rimasto nell'alto dei cieli e avrebbe lanciato questi input e poi avrebbe detto sbrigatevela voi. La Trinità dice che Dio è coinvolto nella nostra vita, cioè è un padre che per coinvolgersi nella nostra vita assume la sua natura umana e per restare con noi ci dà lo spirito. Questa poi è la Trinità, no? E questo Dio che quasi si immerge nel processo della nostra umanità, quindi vuole parlarci, trasformarci, liberarci, salvarci dal di dentro della nostra carne. Allora l'incarnazione effettivamente è guardate come si è uomini, si è uomini al modo di Dio, cioè si è uomini così come Dio è diventato uomo. Se tu vuoi veramente essere uomo, ecco, devi guardare a Dio che si è fatto uomo, quindi a Gesù. Allora non è che è un articolo da credere e basta, ma è qualcosa che ha un'implicazione col cambiamento della nostra vita. Che cosa c'entra la vicenda di questo uomo di Nazaret con la mia umanità, con la vicenda della mia vita? Questa è una domanda che l'incarnazione suscita, no? Quindi sono assolutamente d'accordo che non bisogna ridurre questa cosa una delle tante cose da credere, ma deve diventare poi il motivo, no, anche della nostra conversione. Questo vescovo che vi citavo prima dice, siccome un cardinale, e a proposito di chiesa, no, vedete com'è, dice che interpretare le migrazioni di questi popoli stranieri con la parola di Dio è come un segno, ecco, della volontà di Dio, è assolutamente sbagliato. E questo vescovo dice, perché dice queste cose vengono dalla povertà, dalla guerra, dalla... invece dice c'è qualcuno, questo qualcuno guarda caso è pure il Papa, che interpreta queste cose come se. E questo vescovo rispondendo dice, beh, è vero che non si può interpretare questo fenomeno di gente che scappa e che muore in mare direttamente come volontà di Dio. Ma una cosa noi sappiamo dall'umanità di Gesù, dalla prassi di Gesù, che dobbiamo accoglierli, che dobbiamo amarli, che sono nostri fratelli. Allora vedete, l'incarnazione mette in crisi, cioè, la nostra umanità, c'è poco da fare, è un paradigma per la nostra vita, altrimenti diventa solo, lo crediamo, no? Tutti in chiesa dicono, credo in Gesù che si è fatto uomo, poi però, appunto, se qualcuno muore in mare, noi questo articolo di fede ce lo siamo già dimenticati, ma giusto per parlare anche dell'attualità. Il samaritano credeva in Dio da un punto di vista, rispondo come risponderebbe Rahner, da un punto di vista di una fede esplicita, no. Cioè, guardando alla sua connotazione sociale, alla sua appartenenza esteriore, sociale, è un ateo, diciamo così. E lo scandalo è che Gesù dice, guardate qui che cosa sta succedendo. Naturalmente però la parabola ci fa approdare ad un'altra verità, perché Gesù sta dicendo, questo senza Dio è l'unico che crede davvero. Allora, se dobbiamo rispondere più in profondità, dobbiamo dire, lui credeva in Dio, e gli altri, non dico che non ci credevano, ma forse avevano un'immagine di Dio un po' diversa. L'uno doveva assolvere degli affari del Tempio, l'altro quelli della preghiera, e non hanno occhi per il ferito che è in mezzo alla strada. Naturalmente di parabola si tratta, quindi anche questa non è che vada assolutizzata, la parabola è un po' una metafora, no? Va letta, va interpretata. Anche con un po' di immaginazione, lì c'è veramente qualcosa di bello, di importante che il Vangelo ci comunica. Al di là dell'appartenenza esplicita, crede davvero in Dio chi vive lo stesso amore, la stessa compassione di Gesù. Quindi la domanda poi si allarga, non solo sul samaritano: chi è davvero l'ateo? Questa ve la lascio, questa domanda, perché capite bene che noi rischiamo di essere, se non atei, quantomeno cristiani d'abitudine, no? di convenzione, di tradizione, ma poi alla fine, ecco, il Vangelo ci sfida e dice, il comandamento dell'amore determina chi sta dalla parte di Dio e chi no. Questo al di là anche di tutte le appartenenze esplicite. Posso essere prete, ma posso essere ateo, nel senso che tutti i gesti, le relazioni, le situazioni della mia vita le vivo senza Dio. Ateismo proprio significa questo, no? Senza Dio. Per la domanda di Andrea, potreste leggere il libro, perché voglio dire... Era la consolazione, che cos'era? Sì. Il fariseismo e paganesimo... Già, fariseismo e paganesimo si capisce. La consolazione è una tentazione un po' più sottile, che, diciamo così, è generata da una forma di spiritualità cristiana che indulge troppo e quindi eccessivamente verso un devozionismo che rassicura, tranquillizza, accarezza la nostra anima e fa in modo che appunto la fede sia vissuta come una cosa innocua e anche molto privata. Cioè significa cercare Dio cercare la spiritualità, vivere la fede, cercare evidentemente anche l'appartenenza ecclesiale, solo per ricevere una consolazione privata sugli enigmi della propria vita. Ora, attenzione, quando noi ci accostiamo a Dio, noi riceviamo anche consolazione, rifugio, protezione, calore, ma anche qui il paradosso è che tutto questo non ci chiude in una nuvola pacifica, beata, zuccherina, dove possiamo starcene tranquilli e beati perché tanto niente mi può più toccare. Ma la consolazione che il Signore ci dà è una consolazione che, mentre rassicura il nostro cuore e le situazioni che viviamo, ci spinge anche oltre noi stessi e ci fa vedere altre mete, ci fa andare incontro agli altri. Si può dire anche con qualche altra battuta, per esempio, una la prendiamo dal Vangelo, no? Pensate quando Gesù dice: non sono venuto a portare la pace. È una di quelle parole un po' forti, che un po' ci stupiscono, ma com'è possibile che Gesù, che è il re della pace, dica: non sono venuto a portare la pace, sono venuto a portare il fuoco. Ecco, questa è la consolazione. Non sono venuto a portare una consolazione a buon mercato, nel senso che tu stai male o hai dei problemi o hai degli enigmi insoluti nella vita e allora ti rifugi nella fede, nella preghiera, come una fuga dai problemi del mondo. Se è questa la pace che intendiamo, dice Gesù, non sono venuto per questa pace. Anzi, sono venuto per accendere un fuoco, perché tutte le cose siano, no, un po' più vivaci. Quella è una falsa consolazione, non è la consolazione che viene dallo Spirito. Ecco. E una battuta che ha fatto Henri de Lubac, un grande teologo che ha fatto anche il Concilio Vaticano II, su questo tema, è che è vero che Dio ci dà la pace, ma ce la dà al prezzo di grandi inquietudini. Allora vedete, noi dobbiamo, certo, noi tutti aspiriamo a una consolazione del cuore, alla pace, alla serenità, però non dobbiamo cercare Dio per fuggire dai problemi nostri e degli altri e rifugiarci in una consolazione quasi creata d'arte. E per questa cosa ci sono proprio vere e proprie spiritualità che in qualche modo alimentano questa ricerca. Hai dei problemi? Vieni da noi. Hai delle malattie? Noi facciamo la preghiera di guarigione. Hai delle... Stiamo attenti. C'è del buono, in tutte le cose c'è del buono, grazie a Dio. Però stiamo attenti, perché la consolazione, la pace che il Signore ci vuole dare è al prezzo di una fede vissuta anche prendendo in mano la vita, restando attenti alla vita dei fratelli, uscendo, ecco, verso gli altri, imparando a vivere le domande, i dubbi, cioè prendendo in mano anche le fatiche della vita. Altrimenti quella consolazione diventa una tentazione, e questo oggi è frequente, perché la religione rischia di essere una specie di panacea per tutti i mali che ci portiamo dentro e che non riusciamo a risolvere. Bisogna stare attenti, perché quello diventa una fuga dal mondo, diventa una specie di ecco, anche qui una specie di New Age cristiana, no? Noi ci stacchiamo dai problemi, ci mettiamo la musica, quella più bella, più rilassante, troviamo Dio. Oddio, come mi sento bene quando vado lì. Sì, poi però ritorno a casa e devo anche impegnarmi a risolvere i problemi, a vivere la vita, a stare attento alle persone che ho accanto e quant'altro. Penso che questo è. Andremo avanti fino a domani, però lui deve andare a domani. Chiederei a padre Daniele se vuole concludere. Intanto credo che dobbiamo dirti veramente un grandissimo grazie per questo sacrificio che hai fatto, venire qui fino alla Certosa. Penso che l'intervento di stamattina e le risposte di oggi siano state molto molto utili per tutti noi. Attendiamo con impazienza il tuo nuovo libro. Questi qui ci prometteremo di leggerli e di rileggerli. Grazie. E niente, padre Daniele, se vuoi dire qualcosa, molto in conclusione, perché mi sembra che sia stata un'esperienza, quella di oggi, molto bella. e quindi vogliamo ringraziare Padre Daniele che l'ha resa anche possibile. No, io ringrazio tutti voi, ringrazio Don Francesco, anche Andrea che si è prodigato, il vostro gruppo della tenda dell'incontro, veramente è stato prezioso, e anche tutte le provocazioni che ci hai lanciato, e ci lavoriamo su, soprattutto l'ultima, missionario della consolata, no, non ci avevo pensato. Allora, a scanso di equivoci, i missionari offrono vera consolazione, per carità. Grazie, lo so, come battuta finale, visto che oggi anche è la festa della Pentecoste, il consolatore, allora che ci aiuti veramente a sperimentare la vera consolazione per consolare gli altri, stare con chi è solo. Quindi, grazie veramente e alla prossima. Okay.